In it for you. In it, your music for you. Con tributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97-800, Radio Sandonà 102-2. Buonasera Alvise Favotto. Buonasera Daniele Terzariol, è bello vederti qui, è bello vedere che finalmente hai tagliato i capelli e abbiamo qualcosa di nuovo nel nostro studio, sono i nostri ospiti della serata. Mi sono tagliato i capelli appunto per quello. Perché volevi farti bello. Bisogna pur rendersi presentabili, no? Ma in effetti c'è stata una grande settimana di pedicure e manicure in questo studio aspettando di ospitare gli Italians, che sono tre bei ragazzi qui presenti con noi. Buonasera, Italians. Buonasera. Hello. Ciao bei ragazzi Italians. Ottavia che li ha accompagnati, perché c'è anche una quarta presenza silenziosa ma che vuole fotografarci. Sì, infatti, nonostante che a noi non ci vada proprio, che vuole fotografarci non rendendosi conto che l'obiettivo è quello che è. Insomma, si diceva che Ottavia ce li ha portati, ha detto guardate che William è uno che ci tiene alla presenza, per cui siate belli. Infatti, William, puoi confermare che ci volevi puliti, profumati e tutto il resto? Assolutamente sì. No, io te lo dico, visto che siamo a fianco, io ho degli abre magique sotto le ascelle. Io spero che nel corso della serata tu mi apprezzerai per questo. Apprezza soprattutto il sapore al mango e al pompelmo rosa. Infatti, mango, why mango, come diceva la pubblicità. Gentili ascoltatrici, se volete fare un regalo a Alvise Favotto, sappiate che oltre allo stock 84, recuperabile in qualsiasi cesta di Natale targata anni 80, lui apprezza anche il mango e il pompelmo rosa per gli abre magique. Sì, sì, ma non solo per gli abre magique, ma tiratemeli pure, voglio dire. Presentiamolo ospite per cortesia. Sì, perché di vaccate ne abbiamo dette anche troppe. Benvenuti Italians, come si diceva poco fa. Da dov'è che venite geograficamente e toponomasticamente parlando? Non guardare me quando dici queste parole. Allora, come dire, saltiamo da Vittorio Veneto a Cison, a Pieve di Soligo e fino a Londra, quindi sì. Il famoso Cison di Valmarino. Cison di Val, sì, esatto. Salutiamo il nostro batterista che è preso con le frane proprio. Cison. Esatto, è una frana come batterista, infatti. Cison è gemellata con Londra, giusto? Esatto. Ed è per questo che è arrivato William. Esatto. Era uno scambio culturale. Esatto. Come sei arrivato in Italia? Ti hanno gettato in paracadute? Puoi spiegarcelo? Sì. Uno sbarco in Normandia? Non... No, è una storia abbastanza lunga, quindi faccio la versione più breve. Sì, sì, fai una short version. 1992. Sono venuto qua 5 anni fa adesso, ho fatto un spettacolo dei Beatles, abbiamo fatto un tour per tutta l'Italia, da Sicilia in su. Siamo stati qua 7 mesi, mi è piaciuto un sacco l'Italia, sono tornato un po' qualche volta e alla fine dopo 2 anni... Cosa c'è? Dopo 2 anni... Facevo uno segno che ti è piaciuto soprattutto qualcosa dell'Italia. Sì, forse... Sì, forse I mandolini mi sembra che fosse, vero? Sì, dopo quello 2 anni fa ho deciso di venire qua perché mi piace anche come funziona la musica qua, perché tutti dicono che a Londra è bellissima, è il centro del mondo per la musica, ma non lo è, perché ci sono tanti gruppi, tutti fanno la stessa roba e certe volte diventa un po' pesante. È bello cambiare solo per trovare qualcos'altro, per trovare un nuovo, come si dice, ispirazione. Nuovi, sì. Nuovi stimoli. Esatto. Stimoli. Nuovi stimoli come la canzone. Quella dei Velvet. Che immagino William apprezzi. Sì, veramente esatto. I Velvet, no? No, prima di passare al pezzo, perché Favotto mi faceva segno con il ditino, guarda che dobbiamo presentare la canzone, volevo chiederti perché qui la musica funziona bene, perché noi la vediamo da dentro, per cui secondo noi fa seriamente schifo l'ambiente per come è gestito, non dico per le band, ma per come è gestita. E perché secondo te invece va? Penso che è perché non c'è tutta questa... A Londra c'è tutta questa storia e tutti dicono sono da Londra, quindi sono già figo, siamo già bravi, ok? È vero, solo perché vengono da Londra. E invece qua tutti apprezzano la musica inglese degli anni 60 e in poi, e quindi dicono dobbiamo lavorare, dobbiamo fare le prove per diventare bravi. È quello che devi fare. È quello che tutti devono fare, solo che a Londra ci sono tanti gruppi che dicono non dobbiamo fare le prove perché siamo da Londra. Sì, io ho capito, non so se sono d'accordo, probabilmente. Nel senso, mi sento di essere d'accordo anche io. Anche noi dovremmo far più prove, secondo me. Dici io e te, sì, proprio. Sì, proprio. Ma anche l'età elettrificate. Esatto, delle 2.20, bellissime. Guarda che con la 3.80 si va più sul sicuro. Perché... Per cui pensiamoci. Cominciamo con il pezzo, come si diceva. La scaletta ci viene portata dagli Italians, dovete sapere, gentili radioascoltatori. E ci portano dei pezzi che a noi sono subito molto piaciuti. Il primo... Qualcuno vuole presentarlo qui, qualche baldo giovane, non lo so. Ci portano David Bowie, perché? Cioè, sì, perché... Siamo d'accordo, sì, ma... Sì, sì, non è che sono il pianista degli Italians, quindi Life on Mars è un capolavoro pianistico. Per accordi, melodia, arrangiamento. Oh, e Bowie rappresenta uno dei nostri miti, a cui noi ci ispiriamo. Quindi la canzone perfetta di Bowie è Life on Mars. Puoi presentarla tu? La presento io? Sì. Fallo radiofonicamente, noi chiediamo sempre questa cosa, per cui immedesimati nel ruolo. Sì, sì. David Bowie con Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to fall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? 97.8 Radio Sherwood, 102.2 RSD. Ben ritrovati in compagnia di Music for Youth, in compagnia degli Italians. Posso farvi una domanda assolutamente che vi sconvolgerà per l'innovazione? Perché il nome Italians? È una domanda che ci facciamo anche noi. Originali, hai visto? Ce lo chiediamo ancora, eh? Molto bene. Sì, no, ma è quello il bello. Perché... colpiva, il perché non piaceva. Allora le cose come suscitano scalpore piacciono. Sì, ok. E quindi Italians, è stata la vostra prima scelta? Oppure... assolutamente no. Prima cosa c'è? No, per... allora, no, ce ne sono stati pensati di tanti. Avevamo già un altro nome per un altro... cioè, la stessa formazione che comunque fa cover. Quindi ci chiamavamo i Charlatan, che non vuol dire assolutamente niente. Poi i Charlatans vi hanno fatto causa? No. Voi l'avete fatta a loro, probabilmente. No, perché i Charlatans non sono nuovi a questa cosa. Cioè, ne hanno già fatto causa a un altro gruppo ancora. Sì. Anzi, scusate, mi correggo, è un refuso. Sono i Charlatans americani, sì, che hanno fatto causa ai Charlatans inglesi per poi cambiarsi. Noi siamo più fighi di tutti, siamo i Charlatan proprio. Cioè, il nome è tutto un programma. Ma sappiate che ci sono i limiti per denunciarvi. Perfetto. Sono perfetto. Brutta gente quella americana. Siamo borderline. Siete i soggetti border, esatto. Allora, praticamente questo nome, vabbè, non suonava chissà che, volevamo fare qualcosa di diverso e è nato Italians così, per gioco, perché William è inglese e noi siamo italiani, chiamarci The Italians è un nome che suona all'inglese. E soprattutto, quando abbiamo detto a tutti, adesso abbiamo un nome, The Italians, tutti hanno detto, fa schifo. Oh, che schifo. È l'occasione buona per tenerlo. Questo ci ha dato forza. Immaginavo, sì. Avremmo fatto anche noi così. Sì, sì, noi abbiamo deciso di chiamarci Music for Youth, musica per giovani. Fate conto, cioè, che titolo da schifo, cioè, sì, non è orribile. Voglio magari dire. Musica parfioi, adesso non è che non è abbastanza internazionale, no, capito? Cioè, è lì il problema, va a cocciare contro dei limiti di confine. E da lì però ce lo siamo tenuti e, cioè, ma va bene così, ragazzi, solidarietà per noi, sì. Che si limita a questo studio, per cui appena fuori a quella porta c'è un mondo ostile. Esatto. Parliamo di voi. C'è un mondo ostile con nomi originali. Allora, parliamo di voi comunque. Quando mi nascete? E soprattutto, perché William hai deciso di seguire questi brutti ceffi? Praticamente siamo stati insieme come gruppo un anno, un po' di più adesso. È cominciato in un modo un po' strano, perché io sono andato a Vittorio Veneto per suonare da solo, perché non, a quel punto non avevo un gruppo, per suonare in un posto, perché c'era un altro che doveva suonare lì. Come si chiama? Si chiamava Sacche, un pianista blues nero olandese. Allora, piccola parentesi, scusa William. Vai. Allora, quella sera io, Simone e Patrizio dovevamo andare ad ascoltare questo pianista di colore in questo posto a Vittorio Veneto. Sentire un po' di blues. Esatto. Patrizio ci chiama, che è da Vittorio Veneto, e ci ha detto, ragazzi, c'è un chitarrista bianco. Benissimo. Inglese. Benissimo, lo ascoltiamo lo stesso, no? E qua... entra William. È stato un colpo di fulmine. Io stavo suonando e alla fine abbiamo parlato un po', perché io ho fatto qualche canzone che anche loro stavano pensando di fare. Quindi dopo un po' mi hanno chiesto di suonare con loro. Subito abbiamo trovato un bel... affinità. Sì, grazie. Di niente. Quella è la parola giusta. È cominciato così, abbiamo cominciato facendo le covers. Dopo qualche mese ho detto anche che avevo delle canzoni, volevo registrare qualcosa. Ho chiesto a loro se volevano imparare quelle canzoni, di fare qualcosa insieme. E dopo 4 mesi siamo andati in studio, abbiamo registrato l'EP Lost in Transition che abbiamo adesso. È successo tutto in poco tempo, perché abbiamo la stessa idea della musica praticamente. Non è che non siamo un gruppo pieno di assoli, pieno di quelli che vogliono. E a questo punto io direi che, a parte una domanda a William, ma tu nel momento che sei arrivato in Italia, ti sei accorto che noi non facciamo mai le code? Ti sei accorto che siamo molto meno ordinati rispetto all'Inghilterra? Cioè, non, questa cosa non l'hai proprio notata oppure? Veramente sì. Grazie. Non serve dire altro. Era già sufficiente il tono. Io direi che a questo punto, caro il mio terzariol, noi li faremo suonare. Noi li facciamo suonare. Perché? Ebbene sì. Perché finalmente, per la seconda volta probabilmente nella storia del nostro programma, abbiamo un qualcuno che viene qui con uno strumento che non sia un citofono e suona. Che cosa, tra l'altro? Vorremmo sapere prima il nome della traccia. Anche perché non ce l'avete detto. Esatto. Allora, dillo tu, William, che parli molto meglio l'inglese. Questo brano si chiama Super Role Model. Andiamocelo ad ascoltare, favotto. Ma proprio così, secondo me. Abrasì. I got a friend in fashion, she dresses like a tramp. Her food is strictly rationed and her boyfriend's really camp. She doesn't go out drinking 'cause the calories all count. And when she's finished eating, she makes sure it all comes out. She's a super role model to me. Super role model on the BBC. Super role model, it's true. Super role model, it could be you. She's got the right connections, her name's on every list. And if she's not at the party, then she's sure that she'll be missed. She does her in high places, in the chicest bathroom stalls. At least she's seen their faces in the mirror on the floor. She's a super role model to me. Super role model on the BBC. Super role model, it's true. Super role model, it could be you. She's a super role model to me. Super role model on the BBC. Super role model, it's true. Super role model, it could be. We saw her on TV. We all thought she looked happy. Who knows what was going through her mind? I've got a friend in fashion, her scene is underground. At least now she's been discovered, we know where she's to be found. She's made it to size zero, and with time still on the clock, she's a super role hero in a narrow wooden box. Super role model to me. Super role model on the BBC. Super role model, it's true. Super role model, it could be. Yeah, ho. Se vuoi pronunciarla bene tu, Super Role Model. Il British Institute dov'è? In esatto, questi casi, esatto. Ma più che altro il CEPU, perché non mi viene incontro? La scuola Radio Elettra. Perché non mi vengono incontro? E tutti con un camion, esatto. E possibilmente retromarcia. Tra l'altro Bob Ovieri, grande testimonial di scuola Radio Elettrica e grandi scuole. Potrebbe aiutarci. Come ti pronunciava Super Role Model? Guarda, sicuramente meglio di me a questo punto. Grazie The Italians, veramente avete risollevato questa trasmissione. Perché di suo potete capire che è quello che è. Grazie. Di nulla. Comunque no, grazie The Italians. Ovviamente non so quante volte dirvelo, perché cos'è la seconda? Sono i secondi che suonano, come avevamo già detto. Sì, giusto? Sono i secondi. E non mi ricordo più i primi. I Novalisi. Bravissimo. Forse sì, bravissimo è autodirsi. Sì, bravissimo Lele. Erano i Novalisi. Un saluto, Novalisi. Un salutiamo. Diteci come vi chiamate, per sì, cortesia. Sì, perché vi svelerò un segreto. Noi quella sera non l'abbiamo capito. Forse potrebbe capirlo Little Richard se fosse ancora vivo. O è ancora vivo? È ancora vivo, l'ho chiamata male. Andiamo in studio, Little Richard. Chi è che l'ha portato? Little Richard? Non dico l'ho portato sempre io. L'hai portato sempre io te? Sono il pianista. Ma dunque io Richard è un pianista. Ho fatto tutte le tue scelte inconsapevolmente. Sì, forse perché è musica bella. Di mia non ce n'è neanche una. Ne avevo detto una e non c'è. Che cosa avevi portato? 50 Cent. The Beatles, ragazzi. The Beatles. Ma perché non potevo scegliere tra tutte una, due o tre. Quindi concettualmente avevo scelto Penny Lane dei Beatles. Per concetto, appunto, perché il nostro gruppo si parla su poche cose fatte bene, si spera, e quindi Penny Lane è così, e intendevo quello praticamente. Noi avremmo fatto questa scelta che purtroppo la puntata prima di voi, cioè quella dello scorso, ora me ne vado, quella dello scorso mercoledì era sui, sì, Fab Four e il gran revival di John Lennon all'Unwound di Padova. Esatto, cosa che ha generato notevole riscontro di pubblico e di critica. Pensavo problemi intestinali a te che usi andare senza giubbotto. Imodium per loro. A questo punto ritorniamo a parlare di Little Vogliamo Richard. Vogliamo parlare un po' di questo Little Richard, il re del rock and roll. Ogni volta deve partire questo allarme della vortice. È come un tasto. Quindi vogliamo parlare di, ok, di allarme, no, vario. Del piccolo Riccardo qua. Cosa diciamo del piccolo Riccardo? Cosa diciamo? Perché ti piace innanzitutto? Perché è uno dei più grandi del rock and roll. Colpisce perché è uno dei pochi del rock and roll che usa i fiati, insieme al, ovviamente, al pianoforte, che è il suo strumento, e utilizza la voce come nessun altro. E questi sono tre buoni motivi per ascoltarci The Girl Can't Help It, Little Richard. Io mi sento sempre di dover interpretare William in questi casi, ma non perché è il frontman, ma perché ho ma a che perché fare... lui lo pronuncia meglio di noi. No, no, perché siccome è la presenza internazionale nello studio, sì, mi inquieta un po', perché dico, beh, se non chiedo a quelli che vengono da fuori mi odiano possibilmente. Cioè, già mi odiano quelli local, figuriamoci quelli da fuori se non interpellati. Vuoi dire qualcosa su Little Richard? Puoi anche dire di no, ma comunque io mi sento di averti interpellato e sono contento. Dico solo che Little Richard è stato uno dei primi artisti famosi del pop, della musica, quella genere là, che ha usato suoni con la voce invece di parole, ha creato l'idea di una canzone neanche con le parole, solo con wop bop loop bop la bam boom. Non vuol dire nulla, ma sembra che vuol dire qualcosa quando canta lui. Vedi, porta sempre qualcosa in più William. Eh sì, io sento di volere una sua figurina a casa mia. No, noi potremmo tenercelo eventualmente se lui fosse d'accordo. Se tu fossi d'accordo, William, noi potremmo tenerti qui in studio. Ok. Parliamo di copyright. The Girl Can't Help It, questo è Little Richard. She mesmerizes every mother's son. Can't help it, the girl can't help it. If she smiles and beefsteak become well done. Can't help it, the girl can't help it. She make grandpa feel like 21. Can't help it, the girl can't help it. The girl can't help it, she was born to please. Can't help it, the girl can't help it. And if I go to her on bending knees. Can't help it, the girl can't help it. Oh, won't you? Because I'm hoping, obviously, that someday the answer would be the girl can't help it, she's in love with me. Can't help it, the girl can't help it. What they call the mold. Can't help it, the girl can't help it. The girl can't help it, she was born to please. Can't help it, the girl can't help it. And if she's got a bigger made to squeeze. Can't 102.2 RSD 97.8 Radio Sherwood, gli Italians qui con noi che ora ci sveleranno tutti i segreti che sta dietro il loro primo EP. Allora, come nasce questa cosa? Quando nasce? Chi scrive i testi? Perché 5 canzoni solo e perché non 7? E dove l'avete fatta questa cosa? Puzzava quando l'avete fatta? Esatto. Questa era la domanda extra. La incartate col Domopac di solito? Abbiamo... l'EP l'abbiamo registrato ad aprile di quest'anno, ad aprile. A Magister Studio a Preganziol con Andrea Valfre. Ed è un nostro... Andrea, ciao Mattia. È un nostro ascoltatore, tra l'altro, io te lo vorrei ricordare. Ah sì? Sì, sì. Ciao Andrea, è bello conoscerti, ok? Ci vediamo domani per la pizza solita di ogni settimana. 5 canzoni perché costa registrare un CD, quindi quando abbiamo finito i soldi, abbiamo finito il CD, giusto? Non è stata una scelta artistica, ma abbiamo deciso di fare 5 pezzi, di fare un EP per avere qualcosa per fare sentire le nostre canzoni. Diciamolo, ci serviva per iscriversi allo Jesolo Music Festival e, sì. E l'abbiamo fatto di corsa e abbiamo finito i soldi per andare al concorso. Ma se avete degli outtake, noi vi vogliamo bene. Io e Elvisa abbiamo un'etichetta discografica, vi produciamo così. Bellissimo. A caso. Non portateci, è vero niente. In studio e noi faremo i balzi di gioia. È questo lo studio, però non abbiamo strumenti. E io vorrei far notare che però loro si iscrivono allo Jesolo Music Festival e lo vincono. L'avete vinto con comodità a mani basse. È come quelle storie tipo, non so, Sylvester Stallone in Over the Top, che lui è il camionista che fa braccio di ferro e quando gira il cappellino di... esattamente e nessuno scommette su di lui e poi vince e si vende il camion per, cioè, questi è uguale. Vabbè, scusate, insomma, com'è andata la cosa dello Jesolo Music Festival? Abbiamo vinto il premio Jesolo Live per il migliore gruppo dal vivo durante il festival. Siamo stati felici. Contenti. Grazie, sì. Ottavia, grazie Lorenzo. Grazie a tutti. La concorrenza è andata a farsi benedire, insomma. Li avete trattati male? No, ce n'erano di molto bravi. Lasciamo stare, sì. Girateci i contatti in caso. Noi siamo sempre felici di ospitare. Allora, gli Italians... Poi c'erano anche quelli... Gli Italians, vero? Quelli col cantante inglese. Sì, esatto. Ma soprattutto è bello perché... Non succede spesso avere la possibilità di suonare dal vivo pezzi tuoi, esatto, davanti a qualcuno, perché o suoni le covers o suoni musica vostra davanti a nessuno. Perché... è molto, quello che stai dicendo, che è molto difficile per noi che facciamo musica inedita praticamente proporla. Cioè, o suoni alla festa dell'amico o riesci a infilarti per chissà qual motivo in qualche locale, se no non ti danno spazio. Quindi lo Jesolo Music Festival per noi è stato una cosa molto molto molto molto molto positiva, e aggiungo molto. In setlist c'era per caso la traccia che andremo a presentare ora estratta dal vostro EP? Sì, la vedo scritta tipo qua. Vedi? Potete fare anche una bella finta da pomi e dire che c'era, anche se non c'era. Quello che sto facendo. Ce l'andiamo ad ascoltare dunque. Chi la vuole presentare? Io chiamerei in causa di voi. Sì, guarda, visto che io l'inglese lo mastico a colazione, allora con Orange Coat Girl, questi sono gli Italians. See you waiting across the square. You look so pretty standing there. Our eyes are open and then they meet as cars pass by politely in the street. Oh, I know this feeling. Now I'm hurt. You got me reeling into your arms and I'm there. Our clothes anywhere. Orange coat girl, you blow me away with a kiss. heart. Well, I guess I should have known it from the start. Our eyes are open, a bit too wide, and guilty secrets got no place to hide. Uh-oh, I know this feeling, cracks appearing in the ceiling. Is this how it'll end? To be shared, our teeth with our souls a bit. Orange coat girl, you blow me away with a kiss. Orange coat girl, I can't go on living like this. You're here. Frankly, that's miraculous, my dear. I can't see futures or read your palm, but I know we've had our storms before the calm. Uh-oh, I know this feeling. Once my love got me believing in, I don't know, but it's right. It's still alive. Orange coat girl, you blow me away with a kiss. Orange coat girl, I'm finding it hard to resist. Orange Coat Girl, questi erano gli Italians, i The Italians, come preferite, si può anche saltare il The ogni tanto, no, tanto stiamo in Italian. Vero che preferite gli Italians? Sì, sì, esatto. Gli Italians, questi il erano. Italians, che è un tipo di tè. Dopo il tè Italians. Sì, sì. Comunque. È grigio, vero? Veniamo agli argomenti seri. Le strade di Music for Youth e The Italians si sono incrociate al concerto di Badly Drawn Boy, perché i qui presenti The Italians hanno aperto il concerto del buon Damon, giusto o no? Exactly. Perché? Questa è la domanda. Praticamente il New Age Club è come si dice partner? Partner. Sì. È un partner dello Yesolo Music Festival come premio. Abbiamo vinto la possibilità di suonare al New Age Club come gruppo di spalla. Ci hanno chiesto se volevamo suonare prima di Badly Drawn Boy, che non è forse non è tanto conosciuto qua in Italia, almeno non come in Inghilterra, perché in Inghilterra è uno dei più bravi, è conosciuto come uno dei più bravi musicisti degli ultimi tipo 10 anni. Qui è famoso soprattutto per la colonna sonora About a Boy. Esatto, infatti, perché ho parlato con tanti qua in Italia, ho detto suoniamo prima di Badly Drawn Boy, mi hanno detto ma chi? Quello che ha fatto colonna sonora di About a Boy, un ragazzo. Ah sì, ok, ho capito. Ma infatti ha fatto tanta roba in Inghilterra, ha vinto anche il premio Mercury, che è un premio serio, un bel prize sì. In Inghilterra è importante, perché è la musica che conta per quel premio, non tipo come The Brit Awards, dove è un po' tipo chi è più conosciuto, chi fa il video meglio. Sì. Esatto. Quindi abbiamo detto di sì, perché per noi è fantastico, perché la sua musica va bene con la nostra musica, va bene con la sua, e quindi è stato un'esperienza fantastica. Quindi dopo Bad Little Drum Boy si aprono le finestre dai quali ci dobbiamo buttare giù noi, ma soprattutto le porte per The Italians, che andranno in concerto di qui a breve, visto che voi nascete in tour. Vetrizzanata. Domenica 12 siamo a Cison di Valmarino nel teatro La Loggia, credo si chiama. Poi siamo il 20 sempre di questo mese all'OM di Treviso, e il 24 a Udine. Ah, Udine, un paese vicino a Udine, comunque mi sembra Manzano. Ottimo. E poi il 24, sì, per Natale. Il 24, esatto, come una vigilia con all'italiana. Voi pensate di essere sepolti al cimitero di Père Lachaise? Credo di no, spero di no. Non morirete a 27. Non adesso. Quanti anni hai, William? Li abbiamo passati. Non per le tue fan, per realmente. Ma anche per le tue fan, in realtà, William. No, 31. Allora, non puoi rientrare nel famoso club dei 27, che è io quello... posso ancora entrare. Tu ce la fai? Buono. Molto bene. Ma... l'ariete umano muore. Ti manca la J, Patrizia. No, c'è il famoso club dei 27 che raggruppa un po' di artisti morti a quell'età, tra cui ricordo Kurt Cobain, James Joplin, Jimmy, Janis, esatto, tutta quella bella gentaglia lì. Favotto, tu vuoi dire qualcosa sui Doors? Io e sulle te... porte? Sì, allora. Noi siamo andati abbiamo vari modelli, basculanti. Quelle di prima. Noi siamo andati a vedere, ovviamente, Will Young, solo per sentirlo suonare Light My Fire. Esatto. E a stuprare una canzone bellissima. Esatto. Che perché non prendere per il culo uno dei migliori pezzi mai scritti? Che fallo pure. Insomma, i Doors, io non credo ci servano delle presentazioni. In realtà, chi no, non conosce i Doors è la traccia, però, apre Wikipedia. È la traccia però che ci porta a salutare gli Italians, perché è una puntata un po' atipica questa, che gli Italians si salutano, una puntata un po' naif, e cedono il passo a chi, guarda caso, a Bad Little Drum Boy, che noi stiamo per intervistare. Ma sì, che bel motivo circolare questo prima, Music for Youth. Io prima di congedare gli Italians c'è da fare il solito lavoro. Io chiederei a loro medesimi di dirmi e dirci dov'è che si trovano informazioni su di voi. Se io voglio entrare in internet e vi cerco, succulente informazioni trovo? Poco. No, nel senso, il sito stiamo cercando di farcelo, di costruircelo in qualche maniera. Per il momento siamo su Facebook e MySpace. E MySpace, esatto. Facebook The Italians, si esatto, entra e si esatto, cerca esatto, myspace.com/TheItalians. Esatto, esatto. Volete dire qualcos'altro? Ringraziare i parenti in Inghilterra che sicuramente ci ascolteranno, più precisamente dalla città di... Da che città? Di Londra. Sì, vabbè, sì. Ok, ho capito, che è come dire Milano, c'è un quartierino. Sì. No, sono dappertutto nella città, quindi un po' al nord, un po' al sud, dall'est, all'ovest, quindi dico solo ciao, grazie, ciao mamma. Dillo in inglese, se no non capisce lui. Ah, bravo Fabio. Hi mom. Noi Italians vi ringraziamo. Siete stati... Grazie a voi. Grazie a voi tutti. Salutiamo anche Simone che è a casa. Allo! Siete stati veramente gentili e soprattutto disponibili per averci sopportato così tanto. Noi stiamo per lanciare l'ultima traccia che voi avete portato. Vi direi quasi quasi anche di presentarla. Non abbiamo detto niente dei Doors, ma non ce ne frega assolutamente nulla, perché tanto abbiamo gli Italians e siamo più che contenti. Esatto. Presentatela voi. Chi vuole dei tre questa volta? Cosa dire? La solita cosa radio friendly, qui. Oh, Music for Youth, Radio Sherwood 97.8. All right. The next song is... Allora, il prossimo pezzo è un pezzo dei Doors, gruppo storico. Cosa dire altro? Questo pezzo si intitola Love Me Two Times. Music for Youth, Radio Sherwood 97.8, Radio Sonora 102.2. Time, baby, love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone. Love me one time, do not speak. Love me one time, Yeah, my knees got weak. I'm a two-time girl. Lost me all through the week. I'm a two-time. I've gone away. I'm a two-time. I've gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last week, all through the week. Love me two time. RSD 102.2, Radio Sherwood 97.8, bentornati in compagnia di Music for Youth, sempre Daniele Tertariolo e Elvise Favotto con voi in onda, e con noi Badly Drawn Boy. Hi Damon. Hi there, hello. Thank you so much to be here with us. So, first question, what about the tour? I mean, I know you're touring around Italy and touring around Europe. How's it going? Going really well, thank you. Yeah, this is... I played Italy in the summer. I did 4 shows in the summer, and now I'm back again doing 4 more shows as part of this European tour. So Italy, I don't know, as part of Europe, it's become one of the countries that has been one of the most successful places. The audiences, we've done 3 shows up to now, and the audiences have been really great, really, really nice people, really warm, appreciate the music. So I'm really pleased up to now that it's going so well. Dunque, 3 date in Italia per Damon, che a quanto pare, a quanto stiamo sentendo, coglie il meglio dal nostro pubblico, vero Favotto? Sì, praticamente ci dice che l'Italia sembra essere molto calorosa per il nostro ragazzo disegnato male. Noi ne siamo felici, perché è una bella cosa, insomma. Adesso, forti del nostro inglese, per cui tanto devo ringraziare il CEPU, andiamo con la prossima domanda. So, this new album you have done comes after, say, 4 years of silence. In the meanwhile, we knew that you record soundtrack for the Fattest Man in Britain. What is change? I mean, some sort of like evolution in your sound or evolution in your like songwriting? Why this big silence and then? Nothing was planned. Nothing. I just, circumstances meant that I couldn't go in the studio for quite a while after I'd finished touring the Born in the UK album. I had a lot of work done on my house, little things. I became a bit agoraphobic or something about going in the studio again, because I just didn't want to do it. I felt disappointed in the lack of success of Born in the UK album. Really, it isn't long enough to talk about how many things made me not want to go in the studio, but the soundtrack I did last year, as you said, Fattest Man in Britain, that just gave me a reason to go in the studio. And once I'd done that soundtrack, it made me think, well, I've got to do more music, because it's what I do. So it made me realise I need to keep recording, which is why I've announced a trilogy idea for this album. Mm-hmm. Per cui un demon abbastanza insofferente, a quanto ho capito, perché non si ritrova più nella sua dimensione in studio, specie a causa dell'insuccesso parziale, sebbene è già un gran successo, di Born in the UK. Esattamente. Poi fortunatamente questa opportunità datagli tramite Fattest Man in Britain, che è una serie di cui magari parliamo adesso, gli si chiede qualcosa, gli dà questo nuovo brio, questo nuovo vigore per riprendere a comporre, e da lì riparte il suo talento creativo. Bene, continuiamo così che andiamo tranquilli. Io curo la parte in italiano, tu quella in inglese. Fagli una domanda su The Fattest Man in Britain. What about The Fattest Man in Britain? Did you know about the story before, Ed? It was originally a documentary on TV. The writers based the story on this true documentary of this guy that thought he was the heaviest or fattest man in Britain. So I knew a little bit about it, but I read the script, and it's quite a sad story, but quite positive as well, quite a kind of a happy ending. So I knew when I read the script that my music would hopefully fit that kind of a mood. So I just based musical ideas on reading the script, and then I watched the film, and it was a lot simpler than doing About a Boy soundtrack, which was a much bigger project, being a Hollywood film. But this one was a TV film, only on for one night on television, so it was a slightly less difficult project, but it was still the same kind of process of writing songs for someone else's projects, and it was really enjoyable, and I was grateful to be offered it, because it got, like I said, it got me back working in the studio, which was a really good thing for me. Dunque, Demon si basa sullo script e sulla sceneggiatura vista di The Fattest Man in Britain, che riassume la storia dell'uomo più grasso, se possiamo dirlo. È diplomaticamente giusto, a favotto, dirlo? Secondo me sì, nel senso che è un documentario a tutti gli effetti della vita di, io ho anche avuto occasione di vederlo realmente, della vita di questa persona con questi disturbi di peso, insomma. È stato dunque un processo abbastanza similare a quello che ha portato alla costruzione della soundtrack di About a Boy, quindi Favotto, io non perderei altro tempo e gli farei una bella domandina su quella che è stata per l'appunto la costruzione della soundtrack del film con Hugh Grant. As you said, it's the second soundtrack you made, and there's About a Boy first. In the case of About a Boy, I guess there are some silly similarities with, say, The Fattest Man in Britain, as still in there, it's some sort of sad story, but with an happy ending. Mm. Do you feel the same, or is just my completely stupid thought? No, I think that's right. I think my music, generally, there's quite a lot of sadness or melancholy side to my music and my lyrics and the tone of my music that I've always written. But I think underneath there's always a hopeful side of life. And so I think really that's why I've been asked to do these film projects, is that my music perhaps is already that kind of a world of... There's always an underlying hopefulness within my music anyway. And even though I sing about subjects of relationships being difficult, and on this new album there's a lot of stuff about people breaking up, because mm-hmm. that's what I've experienced in my own life recently with friends of mine that have gone through troubled times and stuff. So I think within my music I try and see a positive tone in life when there's a lot of hardship surrounding you. About a Boy, come The Fattest Man in Britain, si conferma, anzi è un film / documentario che, come la musica di Belly Drum Boy, è particolarmente triste, mettiamola così, per poi avere una sorta di speranza. Comunque alla fine nel messaggio, per Belly Drum Boy invece valgono le canzoni. Esattamente, infatti Demon ci fa notare che, diciamo, il soggetto dei due, del film e del documentario, si attaglia perfettamente a quello che è la musicalità e la suo approccio alla canzone, ossia si tende a parlare di soggetti melanconici ma con un messaggio di speranza alla fine al suo interno. Tra l'altro fa notare anche come l'ultimo album sia un po' intriso proprio di questo approccio alla canzone, nel senso che un tema su cui si sofferma Badly Drawn Boy nell'ultimo album è proprio la rottura di rapporti e di relazioni tra persone. Le storie che vanno a concludersi, no? Esatto, che dice di aver vissuto tramite l'esperienza di amici. Dunque, direi che non ci incischiamo e Favotto, procedi ancora con le tue domande, spazio al tuo English. Just maybe a silly question, but it's again on your tour. You're now touring Europe and then you will move to US in a couple of weeks, basically. It is not the first time you're going to, you're going back to US. What about the difference in the crowd, if you experience, if you have experienced it, or is it basically the same, or how people there get your music? I think there's similarities and differences. It's always, obviously, playing like we are at the moment in Italy, that's not an English-speaking country, so there's a difference straight away there. Obviously, a lot of people do speak very good English, but there's a lot that don't as well, so it's a different thing to say playing the UK or even America, because everybody speaks the language. But I think, I don't know, up to now this year in Italy, I've done like nearly 10 gigs, and which isn't a lot, but it's a lot for me. I don't play other countries that many times, so the response from Italian audiences has been really, really great, like really nice people and really appreciate the music. So I think maybe my music attracts a certain kind of person, whether it's here or back home or in America or other parts of Europe. I think maybe my music is people who really are into music in a proper serious way, that it's a part of their life and they really appreciate it. So I'm really feel lucky that that's the case, because I do take it seriously and I do care about making music that matters, and I put a lot of time and care into it. But I think the audiences that come to see me, whether it's here or at home, are quite similar. But I think the other thing is, because I've come to Italy, I've travelled to see you, I think people also appreciate that. So you get like a warm reaction, yeah, straight away, because you've made that effort, and that's always a good thing as well, because sometimes playing gigs in Manchester, for example, where I'm from, people can just be like, oh, they don't care too much because you just live around the corner, so so that makes a difference anyway. Just about something that happened, basically, I bought your mug and there's paint in there and I kind of like it. Where is it from, basically? The drawing? Yeah. I did it on my iPhone. I know it's not very good, but I did it. I've been doing drawings on my phone, my iPhone and my iPad. I've got these things where you can draw with your finger. So that was one of my attempts at doing a self-portrait of me, and we decided to put it on the side of a mug. And it was just a nice thing for me to do, because then people seem to like it. So that's pretty cool. Yeah, I thought it was kind of fantastic, to be honest. Dunque, a quanto abbiamo capito, caro Favotto, oltre ai tuoi gusti in fatto di mug con il buon Bradley disegnato sulla tazza, Damon è anche particolarmente felice della vicinanza del nostro pubblico, tra virgolette, nonostante la lontananza di lingua. Perché questo? Esatto, cioè la domanda era più o meno sul tour che andrà a fare negli Stati Uniti, sì, a breve, tra poco, e niente, ci diceva che ovviamente gli Stati Uniti, così come anche l'Inghilterra, sono accomunati dall'essere madrelingua inglese, e quindi c'è una maggiore immediatezza nel poter esprimere le proprie canzoni e il proprio messaggio al pubblico. Però no, per contro Damon nota come l'Italia, pur non essendo un paese madrelingua, dimostri una immediatezza, il pubblico, voglio dire, dimostri un'immediatezza nel recepire il messaggio e nel stare a tempo con le canzoni, che lui apprezza particolarmente. Infatti lui, come Babbo Natale, arriva da distante e viene apprezzato più da noi che rispetto al pubblico di Manchester, che se lo becca a 4 metri da casa, visto che lui abita proprio lì. Siccome non possiamo tenerlo troppo al telefono, andiamo verso l'ultima domanda. Sì, grazie, pensaci tu. A really last question. This is now your 7th album, or 6th, I mean, considering... Yeah, 7th including two soundtracks, yeah. So, do you feel your sound is changed comparing the very first with the very last? Or did you have some kind of evolution in your sound? I think if you take each album as an individual thing, there's always something that makes that album sound like that record. Like, the first album has its own feel and naivety, perhaps. about a boy soundtrack has its own kind of tonal qualities, and I think every album has had, I think it's recognisable as being my music, Badly Drawn Boy music or Damon Goff music, I think there's always a subtle change in mood on each album, maybe not massively different, like I've not suddenly done a punk record or something, but there's a certain tonal difference for each record has its own character, I think, even if it's only a very subtle difference. And a lot of people are saying that the new album is maybe similar to going back to the beginning. I'm not sure if that's the case, but I'll take that as a compliment if people think that's a good thing. I mean, there's a simple subtlety to this new album, like maybe a confidence about it as well, like a songwriter that feels like they know what they're doing at last, and it's just saying, well, this is all I can do, this is it, this is how I sound, and allowing that to happen without worrying too much about that. Duca, a quanto abbiamo capito, ogni capitolo di Badly Drawn Boy è un episodio a sé stante, nonostante rimanga una sorta di linea di sottofondo che raggruppa tutti i suoi album. Sì, ci dice che non ha mai divagato tanto da fare un disco punk, per dire, però anche se a me personalmente potrebbe piacermi moltissimo, ma comunque tutto il suo filone è riconoscibile come prodotto di Badly Drawn Boy. Anche quest'ultimo lavoro, sebbene alcuni critici dicano che riprende un po', abbia delle reminiscenze dei lavori iniziali, lui non è così tanto d'accordo, anche se comunque è assolutamente un disco di matrice Badly Drawn Boy. Tra l'altro le canzoni che lui produce sono veramente tante, c'è una sorta di overproduction in stile Ryan Adams, e Favotto, io gli chiederei per l'appunto qualcosa riguardo a questo. Something which puzzled me every time I come to your gig is, you said something, this tune here is in the new album, while I wrote it in 1994, and it happened to me to hear something like that quite frequently, and this was my fourth gig of yours. So why that happened? I mean, why you like leave your test aside for quite a long time? Because I've got so many songs. I mean, there's probably from 1994, 95, 96, there's probably about 300 or 500 songs that I wrote that I didn't ever record. When I did the Born in the UK album, there was probably 100 and something songs that I didn't finish off. That's just the way it's, the last 15 to 20 years, there's probably 1,000 songs that I never finished. So this Electric on the new album was just one song that I always liked, and I decided I'd record it for this album. So I think I've got, there's too many ideas that I could probably ever finish. It would take me a lifetime to do so, and I always want to do new songs. So like the next album, I'll probably want to do new stuff rather than go back to songs that I didn't finish. So that's just the way it is as a writer. Sometimes I'm scared to write new songs because it's more songs that need finishing. So I don't know, it's a strange thing. But that's what it is to be a composer or an artist or a musician. You're always coming up with ideas that you couldn't possibly finish all of them because there's too many of them to finish. Yeah, just in case, can I borrow some? Yeah, I'll send you some if you want, yeah. Oh, thanks. All right, thank you very much to have been with us and for your time. Hope to see you soon again on For Show or whatever. Yeah. Thank you very much. Oh, grazie, ciao. Grazie. Questa era l'ultima domanda che gli abbiamo sottoposto, riguardava la sua produzione ingente di testi e di canzoni. Ci diceva di averne in un cassetto un tons. Esatto, almeno un 500, tra le 300 e le 500 nel periodo 94-97, poi un altro centinaio per Born in the UK. A questo punto mi viene legittimo chiedere se me ne presta qualcuna, non però noi li rivendiamo. Sì. Esatto, tanto non ci sta capendo, quindi siamo a posto. A questo punto, tra l'altro, credo continuerà in questa direzione, nel senso che le canzoni vecchie comunque le scrive, le prova, le mette da parte, ma poi gli piace farne di nuove, e a quel punto questa sarà una specie di Never Ending Story. D'altronde, canzone vecchia fa buon brodo, e infatti noi peschiamo All Possibilities da un suo album che è Have You Fed the Fish. Ti ha dato da mangiare il pesetto, per voto? Io non ho pesci. Darò da mangiare al mio, anche per il tuo che non hai. Bene. Questa è Music for Youth, Radio Share 97-800. E Daniele Terzariola ha un pesce obeso. Radio Sandona 102.2, noi chiudiamo con All Possibilities da Have You Fed the Fish, questo è Badly Drawn Boy. Ciao a tutti. cynical eyes.